Che sensazione hai avuto? Mi sembra di essere in mezzo alla città con tutti i rumori acustici che passano. E le macchine. In mezzo all'inquinamento.